Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. L'ultimo G20 di Brisbane, con lo zar Putin che ha disertato la cena conclusiva per evitare l'assedio di tutti gli altri grandi del pianeta, è stato solo l'ultima prova. La crisi ucraina, col paese di fatto diviso tra filo europeisti e filo russi, la Crimea già annessa da Mosca, il forte sostegno russo alle forze separatiste nell'est è ancora ben lontana dall'essere risolta. Di questo ci chiedono di parlare oggi gli dei di Olimpia e dello sport, in particolare di quel tempo, appena pochi anni fa, in cui l'Ucraina, che appena nel 2012 ha ospitato, lo ricordo, la finale degli europei di calcio, era unita e stabile. Ed appena un quarto di secolo or sono, campioni ucraini vincevano anche e soprattutto nel nome della grande madre Unione Sovietica. E proprio dell'Ucraina del calcio e non solo parliamo col nostro primo ospite, prima giocatore, poi allenatore del Parma dei Miracoli negli anni 90, poi emigrato proprio a Est dove ha allenato e vinto in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, interrompendo il dominio della Dinamo Kiev, e poi in Russia allo Spartak Mosca. Nevio Scala, grazie di essere oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti, grazie della telefonata. Allora Scala, nel 2002 ha vinto lo scudetto ucraino alla guida dello Shakhtar. Le chiedo subito una sua impressione nel vedere la situazione attuale in Ucraina. Beh, io sono andato in Ucraina molti anni fa, quando l'Ucraina stava cercando di emergere da una situazione difficile e erano sulla strada giusta. Io avevo conosciuto, con il quale andavo a caccia, il presidente Yanukovych e quindi ho un ricordo bellissimo di quell'Ucraina. L'ho visitata in lungo e in largo proprio perché attraverso il calcio sono riuscito ad avere le possibilità per conoscere anche la mia professione, l'agricoltura che sto coltivando in questo momento, e per me era una terra veramente di grandissime potenzialità. Da un punto di vista calcistico siamo arrivati con la squadra che non era mai riuscita a vincere e a infrangere l'egemonia della Dinamo di Kiev, e per la prima volta siamo riusciti a vincere il campionato e a vincere la Coppa Ucraina, e quindi è stato un successo veramente grandissimo che mi ha aiutato a fare breccia sul popolo ucraino. Kiev e Donetsk rappresentano le due anime del paese, una europeista, una filorussa, semplificando e non di poco. Ecco, una percezione viva anche durante la sua esperienza nel paese? Diciamo che in quel momento sentivo la gente che non parlava mai dell'Ucraina, cioè parlavano la lingua russa, erano nostalgici del periodo russo, perché dicevano stavamo meglio prima, adesso siamo un po' in difficoltà, quindi diciamo c'era già in atto allora un qualche cosa, un'insofferenza che portava la gente a ricordare con un po' di nostalgia la dominazione russa, e quindi era un po' strana questa cosa, però in effetti poi dopo qualche anno appunto si è rivelata una situazione che allora stava emergendo e che adesso purtroppo è scoppiata. Вистів, то три матчі відбору до Єврочемпіонату збірна грала саме у Німеччині. Зерна зараз віддає на Жасу, Гол! Жасу забиває м'яч, Даріо Суда робить передачу. Da quello storico scudetto e da quell'altra storica Coppa Ucraina datata sempre 2002, di tempo e di successi ne sono passati, tanto che nel 2009 lo Shakhtar Donetsk, guidato allora come oggi da Mircea Lucescu, ha conquistato, come avete sentito, anche grazie al gol del brasiliano Jetson, l'ultima edizione della Coppa UEFA, battendo in finale il Werder Brema. Proprio Lucescu ci ha raccontato come è nato il modello vincente dello Shakhtar. Abbiamo costruito bene, abbiamo lavorato bene, ho trovato qua un centro con le strutture perfette per poter lavorare bene. Abbiamo ristrutturato la squadra cercando di portare qua giocatori che possono creare spettacolo per attirare la gente, perché attirando la gente si crea una disponibilità eccezionale alla città di sostenere questa squadra. Abbiamo preso i giocatori giovani, poi li abbiamo fatto crescere, non dimenticando che la cosa più importante era di vincere. Sì, abbiamo vinto negli ultimi 9 anni 7 campionati, 4 coppe, 4 supercoppe, una Coppa UEFA. Vuol dire che abbiamo bene lavorato e allo stesso tempo abbiamo lasciato partire dei giocatori importantissimi, cercando di equilibrare sempre il budget. Donetsk, il club rampante in ascesa, la Dinamo Kiev invece la tradizione, esaltata da quella squadra creata dal tecnico Valery Lobanovsky che stupì il mondo nella seconda metà degli anni Ottanta, vincendo per conto e nel nome dell'Unione Sovietica la Coppa delle Coppe nel 1986 per 3-0 contro l'Atletico Madrid e rappresentando l'ossatura di quella nazionale sovietica che nell'88, alla vigilia della caduta del muro, fu vicecampione d'Europa proprio in Germania Ovest. Molti di quei giocatori poi migrarono in Occidente. Mikhailichenko vinse lo scudetto con la Sampdoria, il talentuoso Zavarov e il mediano Aleinikov approdarono invece alla Juventus, col secondo che ebbe a sorpresa più fortuna del primo, come ci ricorda lui stesso. Mi volevano prendere per aiutare a Sasso di desiliarsi in qualche modo, solo che è successo viceversa, io mi sono trovato meglio di lui. Come io giocavo in nazionale, noi vigevamo spesso, stavamo in Italia, in Germania, in Inghilterra, dappertutto. Poi venivamo in Italia spesso in ritiro, stavamo a Coverciano, al Ciocco, perciò io in qualche modo ero abituato all'Italia, però giustamente non credevo che potevo rimanere così a lungo, ma soprattutto vestire la maglia della Juve. Viaggi davvero particolari, ricorda ancora Sergei Aleinikov, quelli che si facevano a Occidente durante gli anni dell'Unione Sovietica. Tutti avevano paura che atleti più famosi rimangono lì e non tornano più in patria, e per questo motivo venivano con noi, non so se possiamo chiamarli agenti di KGB, però anche se venivano, se qualcuno voleva rimanere poteva rimanere tranquillamente, non è stato il problema di loro, soltanto che noi, la maggior parte di tutti gli atleti, non volevano rimanere. Qualche ballerino sono rimasti all'estero, però erano di cose singolari, non erano una cosa che tutti volevano scappare, però cercavano sempre di tenere sotto il controllo, questo è vero. Vicecampione d'Europa, dicevamo, quell'Unione Sovietica targata a Dinamo Kiev e sempre allenata dallo stesso Lobanovsky. Negli europei dell'88 quella squadra straordinaria incrociò in semifinale proprio l'Italia di Azeglio Vicini. Serata amara quella di Stoccarda per Zenga, Vialli e gli altri azzurri. Nella ripresa il duro colpo, l'Italia avanzava nella speranza di far sua la posta in palio e la cinica squadra di Lobanovsky infliggeva il suo 1-2 mortale. Prima era Livtochenko a sfruttare la palla buona dopo un appoggio errato di Altobelli a centrocampo ed un minuto dopo Protasov sfuggiva a Ferri inginocchiando gli azzurri. Il sogno svaniva. 2-0 quindi per i sovietici, che incassarono anche i complimenti di Vicini, come sottolinea Aleinikov ricordando l'eredità lasciata da quella squadra. Secondo me ha lasciato una traccia abbastanza importante. In che senso? Che tutti volevano in qualche modo copiare questo calcio. In finale ci vorranno i gol di Gullit e il capolavoro di Van Basten per infrangere il sogno europeo di quell'Unione Sovietica e regalare il titolo all'Olanda. Van Basten? Oh, the goal! What a goal! What a schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven! Wat een weergaloos doelpunt! Nevio Scala, abbiamo ripercorso insieme la storia di quella straordinaria Dinamo Kiev. Un osso duro con cui confrontarsi, vero? Anche se lei, lo ricordiamo, sfidò Lobanovsky nella parte finale della carriera e della vita stessa di quel grande allenatore. In effetti la Dinamo di Kiev che cosa aveva di grande vantaggio? Raggruppava all'interno di Kiev tutta una nazione, cioè tutti i giocatori più importanti arrivavano a Kiev, quindi la potenza economica di Kiev ha fatto sì che ogni giocatore emergente di tutte le piccole città o anche grandi come Dnipropetrovsk, come Donetsk, come in altre, tutti i giocatori arrivavano a Kiev e lì è chiaro che era facile dominare il calcio ucraino con questa potenza. Ripeto, noi fortunatamente siamo riusciti con un po' di lavoro, anche molto lavoro forse, ma un po' di fortuna a interrompere questo predominio e per la prima volta abbiamo vinto il campionato ed è stata veramente un qualche cosa di straordinario. Però in effetti da quel momento con la potenza economica di Rinat Akhmetov, con gli acquisti in Europa e in Brasile di giocatori, con l'avvento di allenatori stranieri, prima io, adesso Lucescu, è riuscito a interrompere e adesso sta dominando il calcio ucraino. In chiusura, Nevio Scala, le chiedo, pensa che il calcio riuscirà in qualche modo a riavvicinare le tante anime, a ricomporre le tante fratture tra Kiev, Donetsk e Mosca? Ma in questo momento penso sia difficile, anche perché lo Shakhtar Donetsk è andato via da Donetsk, si allena in un'altra città, giocano in un'altra città, hanno lo stadio distrutto e quindi i problemi sono forse più grandi di quelli che noi vediamo dall'esterno, anche se i media ci danno la possibilità di vedere da vicino quello che succede. Però il calcio dovrebbe essere, come ha detto lei, un qualche cosa che può incidere sulla possibilità di un avvicinamento fra le due. Tra le due teste, diciamo così, però credo che in questo momento sia ancora troppo presto per pretendere una svolta così importante come dovrebbe essere. Nevio Scala, grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e buona serata e buon lavoro a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Kiev contro Donetsk, Donetsk contro Kiev, ma fino alla caduta del muro di Berlino l'Ucraina era parte dell'Unione Sovietica e quindi tutti i titoli e i campioni ucraini vincevano nel nome e per conto di Mosca. Uno però seppe volare letteralmente più in alto di tutti, Sergei Bubka, 6 volte campione del mondo e 1 volta campione olimpico nel salto con l'asta, ancora oggi detentore del record mondiale all'aperto a quota 6 metri e 14 centimetri. C'è un legame forte che unisce Bubka, oggi dirigente sportivo ai vertici del Comitato Olimpico Internazionale, con l'Italia. Giuseppe Gibilisco, il fenomenale siciliano, oro mondiale nell'asta a Parigi 2003 e bronzo olimpico l'anno dopo ad Atene, è stato allenato proprio da quel Vitali Petrov che di Bubka fu scopritore e mentore. E allora grazie a Giuseppe Gibilisco per aver accettato oggi il nostro invito e per essere quindi cittadino di Olimpia. Grazie, buonasera a voi. Giuseppe, immagino che Bubka sia stato una grande fonte di ispirazione per te. Ma diciamo che è stata una fonte di ispirazione perché è stato, diciamo, innanzitutto il primo uomo a valicare la barriera dei 6 metri. È attualmente ancora il detentore del record del mondo all'aperto, poi è stato un grande atleta, è stato uno di quelli che ha vinto tutto, e gli atleti che hanno vinto tutto nel mondo dell'atletica ce ne sono veramente pochi e lui è uno di questi pochi. Beh, Giuseppe, direi che anche tu qualcosina l'hai vinta, l'indimenticabile notte mondiale di Parigi, ma anche quel bronzo altrettanto storico ad Atene, proprio sotto gli occhi di Petrov, allora tuo allenatore in tribuna. Ce l'ha fatta, attenzione, questo è un salto da podio sicuro, fantastico, un fenomeno, assolutamente fuori di testa, è arrivato qui, è qui il suo allenatore Vitali Petrov, assolutamente fuori di testa, è arrivato qui che si teneva assieme con lo scotch coi cerotti, salta 5,85 ed è l'unico ad averlo fatto. 5,85 m per Gibilisco. Beh, emozioni davvero speciali. Ecco, Giuseppe, in cosa tu e Bubka eravate simili sotto il profilo tecnico? Ma diciamo che i nostri salti, il mio e il suo, erano abbastanza simili. Certo, lui con un'altra potenza perché c'aveva un altro motore rispetto al mio. Però diciamo che dal punto di vista tecnico, essendo il mentore uguale, dal punto di vista tecnico siamo abbastanza equiparabili. Senti, invece in che cosa era proprio unico, inarrivabile Bubka nello stile? Guarda, lui era un atleta a 360 gradi, era un atleta che ti faceva 8 metri di salto in lungo, era un atleta che ti correva gli ostacoli in 13,6, era uno che ti faceva 100 in 10,2, uno che correva 60 i 60 in 6,60, insomma era un atleta che dove si metteva faceva la sua magra figura. Era un atleta completo, capito? Uno di quelli, un atleta con la maiuscola. Se non avesse fatto il salto con l'asta sicuramente riusciva in qualcos'altro. Poteva anche fare un decathlon, diciamo. Sì, sicuramente, però sai, il decathlon è poco remunerativo e lui era uno di quelli che andava appresso ai quattrini di centimetro in centimetro. Ti ricordi quando faceva il record di in centimetri, quindi avrà preferito fare il salto con l'asse. E poi sinceramente non perché io l'abbia fatto, ma il salto con l'asse secondo me, non perché ripeto sono di parte, ma è la disciplina più spettacolare per eccellenza. World champion, the 88 Olympic champion, Sergei Bubka of Ukraine. You may remember he made no hide in Barcelona with a swirling wind, and he had an Achilles problem last year in Atlanta. Technically not a fine jump at all, but Bubka is so fast and so strong that he can make those. The remarkable Sergei Bubka is the only athlete to win 6 world titles in the same event. Detronizzato immediatamente Sergei Bubka ha recuperato lo scettro del primatista del mondo superando 5,94. Momenti davvero indimenticabili quelli dei grandi trionfi di Bubka. E poi quella notte di Roma al Golden Gala nel 1984, vero Giuseppe? A Golden Gala quando con Vigneron fecero 2 record del mondo, prima Vigneron e poi lui, 5,91 e 5,94. furono lì è stato. Io ancora lì non conoscevo niente dell'atletica leggera. Però poi dopo, quando mi sono appassionato del salto con l'asta, ho avuto modo di vedere, ho avuto modo di conoscere lui, ho avuto modo di parlare con lui, mi ha raccontato. Figurati che il giorno prima della mia finale lì a Parigi, lui stava lì nell'università dove stavamo a Parigi e mi fermò, mi disse: guarda, l'ho visto bene, mi raccomando, tough, mi ricordo, mi disse tough, devi essere duro, devi essere, non mollare, non regalare niente a nessuno. Beh, e poi insomma il giorno dopo ho fatto quello che avevo nelle gambe, capito? Ho fatto quello che tutti, chi mi conosceva e chi mi deve saltare in allenamento, sapeva che da un momento all'altro scoppiava la bomba. Lo stesso Bubka qualche tempo fa ha rivissuto al nostro microfono il successo mondiale di Gibilisco. Sentiamo. I was very happy and pleased. Sono stato sinceramente contento quando Giuseppe vinse il titolo di campione del mondo a Parigi. Gibilisco ha lavorato duramente per molti anni con Vitaly Petrov per costruirsi una carriera di successo ad alto livello. Perché se è una grande impresa diventare campione del mondo, una sfida altrettanto grande è quella di mantenersi al vertice, trovare il modo giusto per farlo, perché quando sei detentore di un titolo la tua vita cambia molto. E allora dipende dal tuo carattere, dai tuoi obiettivi, se soccombi alle prime difficoltà o se riesci a fronteggiarle. È il genere di sfida con cui tutti i grandi atleti devono fare i conti per restare in gioco e raggiungere risultati di alto livello. Abbiamo chiesto poi proprio a Vitaly Petrov, il leggendario allenatore di Bubka e poi di Gibilisco, come scoprì il talento del fenomenale ucraino. Di solito aveva una come idea, un anno andare a scuola, dopo quando il gruppo è già riempito. Dico, prossimo anno, settembre, di solito noi iniziamo sempre nuovo anno, da settembre, e dico, tutti devono venire con suoi amici, parenti, vicino, e se no, non venite. Un ragazzo importante, Sergei, lui aveva 10 anni. Da qui, piano piano, noi iniziamo a lavorare, già dopo 2 anni, ho detto che ho in mano talento, perché già visto che lui allena, no, come sai, serious, no, come solo venuto per divertimento, e come psicologia, come idea per lui. Lui anche dopo portato a suo fratello, che stava anche terzo mondiale, indoor e secondo campionato europeo, più grande di lui, 3 anni. Ma qual era il segreto di Bubka? Ancora Petrov. Lui forte per tutti i pezzi che è necessario per salto con l'asta, come ginnasta, come atleta, come velocista, ma anche ha grandissima volontà saltare, mette tutta la vita per saltare più alta. E questo è il suo vantaggio. Aveva capito buona tecnica con salto con l'asta. Lui ha organizzato tutta la vita per migliorare i suoi risultati, da bambino fino a 37 anni, perché già tu sai, 14 anni è andata con me in un'altra città, lasciata genitori con suo fratello, e per questo scopo per lui una unica: saltare altissima. Beh, fa sempre un certo effetto sentire la testimonianza di Vitaly Petrov. Giuseppe Gibilisco, prima di salutarti ti chiedo ancora, chi Che eredità ha lasciato un campione come Sergei Bubka nello sport mondiale? Ma sai, è come se mi chiedi se si può imitare Carl Lewis. È difficile poterti dare una risposta. Può darsi che domani si incontra, magari se io diventerò l'allenatore del salto con l'asta in Italia, può darsi che domani incontri un talento stratosferico come Bubka e possa ripetere le stesse cose. Secondo me lui ha dimostrato che lui ha come personale 6,15, ma lui era uno, un atleta che poteva fare benissimo 6,30, forse qualcosina in più. Sono diversi salti che lo dimostrano, però ti ripeto, lui andava di centimetro in centimetro per far sì che il record non venisse, come dire, bruciato. Sì, non, lui andava a prese quattrini, ecco, giusto per essere chiari e non girarci troppo attorno. Quindi una cosa che fai una volta, il record 6,30, e poi non lo fai più, è una cosa che oggi fai 6,10, poi fai 6,11, poi 6,12, capito? Quindi è diversa la cosa, economicamente parlando è diversa. Però ti dico, secondo me il limite non è quello che ha stabilito lui, il limite del salto con l'asta è molto più alto. E secondo me a quel limite lì si possono aggiungere benissimo altri 20 centimetri. Giuseppe Gibilisco, grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie a voi e a presto. Beh, davvero bello ripercorrere emozioni e tensioni dello sport ucraino in questo momento così particolare. Per l'appuntamento con Olimpia di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci anche in podcast dal nostro sito web radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ancora una buona serata, ciao a tutti.